mondo. 118esima trasmissione dedicata agli emigrati. Canzoni sacre friulane. Dal primo concorso della canzone sacra friulana, organizzato dalla Scuole Libere Furlane, trasmettiamo un secondo gruppo di melodie che sgorgano semplici e schiette dal cuore del popolo friulano. Il coro di Maiano, diretto da Tullio Collaone, esegue l'Ave Maria Furlane di Giulio Moro, solista Maria di Leno. La Gnot Benedete di Stelis è un canto di Oreste Rosso su testo di Sante Tracogna, eseguito dal coro di Maiano. Yeah. Lesa, su versi di Giobatta Gallerio, ascoltate La Scarpute de Madonne, nell'esecuzione del coro di Pontebba diretto da Gino Piemonte. Oh, Ed infine il coro di Porto Nogaro, diretto da Mario Del Frate, esegue la canzone dal titolo La Violute di Giobatta Gallerio, musicata da Oreste Rosso. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ermete Pellizzari.